nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta. Il programma dell'altra domenica di Radio 24, il programma che ogni domenica parla di donne, di lavoro, di problemi legati a come viviamo in ufficio e tutto il mondo che circonda chi si deve dividere tra mille cose. A proposito, lo sapete, questa cosa del dividerci tra mille impegni è un po' una nostra fissazione, perché il multitasking è una fregatura e, come vi ho raccontato la settimana scorsa, non è soltanto una nostra ossessione, una fissazione che ce l'abbiamo col multitasking perché ci siamo trovati una battaglia. No, è qualcosa che piano piano erode la nostra vita, il nostro equilibrio. E non lo diciamo solo noi. Ve l'ho raccontato la settimana scorsa, due neuroscienziati di spessore, Earl Miller e Daniel Levitin, rispettivamente dell'MIT, il famoso istituto del Massachusetts, e Levitin della McGill University, sono giunti alla conclusione uguale, identica e preoccupante: il nostro cervello non è cablato per il multitasking. E quando si sta cercando di concentrarsi su un'attività e per esempio arriva una mail e quella mail noi non la leggiamo perché continuiamo a occuparci di quello che stiamo facendo, ebbene, comunque nel nostro cervello accade qualcosa per cui il quoziente intellettivo, non ci crederete, ma i due neuroscienziati dicono che è così, ebbene, il quoziente intellettivo rischia di perdere 10 punti. Praticamente di più, dice il docente della McGill University, di quanto succeda a un fumatore di cannabis. Ma vi rendete conto? Noi smettiamo di fare tante cose tutte insieme pensando che si debbano fare benissimo, facciamo quello che possiamo, anche tante cose, ma come dire, con la consapevolezza che non tutto può essere perfetto, a cominciare da noi, che perfette non siamo, dunque anche in questa ora di conversazione si potranno dire anche un po' di stupidaggini. È domenica mattina e ce lo possiamo permettere. Col conflitto le donne hanno un problema. Nel senso che spesso preferiscono spararsi tra di loro piuttosto che gestirlo all'esterno. È la cosiddetta sindrome del cecchino. E della sindrome del cecchino vorrei proprio parlare con il nostro agente provocatore di questa domenica, uno che provoca non poco, lo sapete, lo sentite sempre alla Zanzara. David Parenzo, buona domenica, ben trovato. Ciao. Buongiorno e buona domenica a te e ai tuoi radioascoltatori. Ecco, dicevamo della sindrome del cecchino, quella per cui spesso le donne preferiscono spararsi tra di loro piuttosto che sparare fuori. Sparare metaforicamente, per carità, ma hanno un problema con il conflitto spesso. Chinano la testa e se il capo bastone dice non si parla, non si parla. Sì, credo che tu abbia perfettamente ragione. La donna è per definizione accogliente, la donna è madre, quella che dà la vita. Quindi adesso non vorrei farti un discorso troppo alto che esce dal mio ruolo di agente provocatore. Anche perché domenica mattina siamo necessariamente esatto. In relax. Però sicuramente la donna, come dire, cerca di disinnescare il conflitto. Certo, non... però anche voi alla Zanzara, tu e Cruciani, non vi fate mancare quello né le parole forti né gli insulti. No, è un peccatorum. Lì infatti purtroppo c'è alle volte questo telefono aperto in cui anche gli ascoltatori più belli. Ricordi più qualcosa diciamo relativo al nostro tema della sindrome del cecchino, delle donne che si sparano le une contro le altre? Ma sicuramente potrei ricordare tanti episodi, forse la Santanchè, uno dei più grandi cecchini donne. Forse ecco, la Santanchè esce da quello stereotipo di cui tu parli. La Santanchè azzanna chiunque, siano esse donne, siano essi uomini, lei tende ad azzardare. Se sono donne, però forse ancora di più, per cui l'acrimonia con la quale, ad esempio, alle volte l'onorevole Daniela Santanchè si scaglia contro la presidenta della presidentessa, pardon, della Camera, beh, lì ci sono parole fortissime utilizzate per non ricordare poi le parole di Buonanno, ad esempio, l'eurodeputato circense della Lega Nord, quello che è più conosciuto per i suoi show che non per le sue proposte. Beh, alla Zanzara c'è stato anche un epico scontro a distanza tra due che non sono politiche, ma appartengono al mondo, diciamo, dello spettacolo, Nina Moric su Belen Rodriguez. Sì, assolutamente. E posso dire che io ho un po' la sensazione che voi maschietti vi ci divertiate, che tu e no, Giuseppe ma io non Cruciani ne farei. No, su questo io non no. Io parlo per me, lui non sì. Lo so, però noto misogino, ma io non ne faccio assolutamente una questione di genere, tutt'altro. Non, per me l'insulto è insulto. Grazie David, grazie ciao, per essere stato domenica. Con noi a Nessuna è Perfetta. Grazie. Buona domenica a te. Ciao, ciao. Ciao. E adesso una piccola pausa. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Come sapete, adesso è il momento della nostra Sunday Girl. Chiedo a me, ma guarda io... Natalia Aspesi, avete riconosciuto la voce, giornalista, scrittrice, qua. La mia firma preferita, lo ammetto, lo riconosco. Non esageriamo, ma è così. Quanti direttori pesanti, arroganti e quanti empatici hai avuto nella tua vita? Ma io devo dire che sono... Non ho avuto molti direttori, per fortuna, ma devo dire che sono sempre stata trattata con molta gentilezza. Avevano paura di te? No, non lo so. No, può darsi, perché è vero che io molto spesso sono stata e sono tuttora una persona che non accetta certe cose. Se mi chiedevano soprattutto degli articoli che mi sembravano stupidi, io mi rifiutavo facendo scenate, per cui mi ricordo che quando mi dovevano chiamare dall'ufficio centrale, dove ci sono tutti i vice direttori, dicevano: la chiami tu l'altro? Se no, io l'ho già chiamata. Non voleva chiamarmi nessuno, quindi diciamo l'antipatica ero io, non loro. Quanto conta l'essere empatici secondo te? Penso che sia molto diciamo positivo per chi è empatico, perché è ovvio che raccoglie più facilmente un aiuto, la simpatia, però io per esempio non credo di essere empatica, perché mi stufo subito, di parlare con persone con cui non ho un rapporto, diciamo, di affetto, di amicizia, per cui taglio sempre corto, mi rendo conto anche spesso inutilmente, con poca gentilezza, ecco, soprattutto al telefono, devo dire. Quindi saremo rapidi, allora, per non annoiarti, Natalia. No, sai cosa c'è? Che al telefono la gente non arriva subito alla ragione per cui ti ha telefonato. Ti chiede come sta, come va, tutte cose inutili, perché siccome magari uno non ha tempo, non ha voglia di... E tu a quel punto gli diresti: vieni alla ragione della telefonata. Sì, perché non star lì a chiedermi come sto, cosa faccio. Non ci interessa in questo momento. Ecco. Senti, nella riedizione di un libro che è stato scritto da te 40 anni fa, delle donne non si sa niente, sì, scrivi che le peggiori tra le donne sono quelle che tu chiami sorellastre. Sì. Chi sono? Però devo dirti una cosa, che sono quasi scomparse le sorellastre. Questa è una buona cosa. Almeno per quello che mi riguarda, sai, solo probabilmente il fatto che sono vecchia come il cucco non suscita alcuna gelosia né sentimentale né professionale. Però le sorellastre sono quelle che magari, soprattutto ti dico in passato, usavano la parola femminista per farti fare delle cose che non erano giuste, che non volevi fare nei loro confronti, di positivo per loro ma di negativo per te. E queste, tu dici, sono un po' scomparse. Invece una categoria... Io non le incontro più, non so se sono scomparse. Una categoria che resiste, invece, e che è presente nel tuo libro Delle donne non si sa niente, è quella delle coniugate. Coloro, tu scrivi, che vedono come unico obiettivo nella vita il matrimonio. E sì, pensa che a questa categoria è stato dedicato anche un saggio uscito di recente, molto divertente, di un'antropologa di New York, che ha esaminato le mogli di questi finanzieri, di questi uomini ricchissimi che abitano nell'Upper East Side e che hanno come, diciamo, principale occupazione quella di tenere ben agganciato questo loro ricco marito, pur essendo magari delle donne che hanno super lauree, che hanno lavorato in finanza, ma una volta coniugate fanno solo quello di lavoro, fanno le mogli e le mamme. Ma è una professione fare la moglie di uomini ricchi, perché devi dedicarti a molte cose, alla casa, ai pranzi, alla tovaglia ben messa, al saper ricevere, perché queste persone hanno bisogno di avere attorno molta altra gente importante, quindi io ritengo che è un vero mestiere e infatti viene stipendiata con gioielli o altre cose. Ah sì, le danno anche un bonus, ho appreso dalla lettura di questo saggio. Io dico la verità, alla fine della mia vita rimpiango di non aver avuto un marito molto ricco. Ah, cioè, quindi tu suggeriresti questo tipo di carriera, Natalia? Non ci posso credere. E sai, è la più, oggi poi è la più semplice, è la più, è vero che non è facile oggi trovare un uomo ricco, ma è più difficile trovare un bel lavoro. A proposito di buon lavoro, ti è mai capitato di avere in redazione un narciso sempre invidioso dei successi degli altri? Sai quegli scorpioni col pungiglione carico di veleno che proprio non resistono a non mandare degli schizzi velenosi? Come ti sei comportata, se ti è capitato? Beh, di averne? Intanto io ho avuto la fortuna di non lavorare mai in redazione. Io ho sempre lavorato da casa mia. Che privilegio! Quindi i colleghi li ho sentiti al telefono al massimo. E forse uno dei miei capi milanesi, ma molti anni fa, mi perseguitava un po' cercando di tarparmi le ali nella mia forse superbia, non lo so. E infatti mi è venuto il fuoco di Sant'Antonio, non sapendo come reagire. Poi, quindi anche tu sei stata vittima di una malattia professionale proprio legata alla spiacevole convivenza. Sì, al modo in cui venivo trattata. Comunque alla fine ha mandato via lui e sei rimasta tu, fantastico, alla lunga. Senti Natalia, chi è la persona che ti sembra sulla scena pubblica, italiana o internazionale, la più empatica, quella che secondo te nel 2016... La più empatica popolarmente devo dire che è Renzi, non con questo che mi piace alla follia, però lui sa parlare alla gente, senza spaventarla, mentre gli altri che vorrebbero essere empatici e forse in parte riescono anche ad esserlo, prospettano solo disgrazie, orrori, fine di tutto, povertà, invasione di crudeli immigrati. Allora tutto questo spaventa molto la gente. Con questo non è detto che non trovino, poi non trovino simpatia e sostengano queste persone. Certo. Senti, internazionalmente, secondo te, Donald Trump e Hillary Clinton sono empatici? No, forse nessuno dei due lo è, però forse non è neanche a quel livello necessario. L'importante è non votare perché uno è simpatico, ma votare perché pensi che sappia aiutare la tua vita e aiutare il paese. Questo sì, credo, dovrei... ecco, credo... Io non voterei mai uno perché è simpatico o perché quando parla mi incanta. Lo voterei secondo il suo programma, anche se mi è antipatico. Grazie alla nostra Sunday Girl di questa domenica, grazie a Natalia Aspesi. E... ciao, auguri. Grazie. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, la nostra terza parte del nostro programma. Questo è il momento, lo sapete, della lettera con il problema posto da un'ascoltatrice. Ma questa settimana ho deciso, prendendomi questa responsabilità, di non sceglierla tra i dubbi e le problematiche che ci proponete voi, ma di citare la lettera che è stata pubblicata dal Financial Times qualche tempo fa, perché sono convinta che sia comunque un tema evergreen che riguarda tante, e non soltanto le avvocate come quella che ha scritto al Financial Times. La lettera che è stata diciamo pubblicata nella rubrica della columnist del Financial Times Lacey Calloway ha questo contenuto. Sono partner di un grande studio legale d'affari e madre di due bambini piccoli. Vorrei chiedere di lavorare 4 giorni a settimana con una riduzione dello stipendio. Il mio è un lavoro legato ai risultati di ciascun affare sul quale lavoriamo e con molte ore oltre il normale orario di lavoro. Mi piacerebbe essere libera di andare a prendere i miei figli a scuola almeno 2 giorni a settimana, ma temo che proponendo di lavorare solo 4 giorni darei allo studio l'impressione di essere meno coinvolta nel mio lavoro legale e questo potrebbe influenzare le mie prospettive di carriera. Che fare? Già, che fare? La domanda posta dall'avvocato che ha scritto al Financial Times ce la siamo posta sempre e tante di noi non sono state neanche in grado di darsi una risposta. Io la domanda la pongo a una dei più grandi avvocati italiani, Paola Severino, giurista, accademica, avvocato, già ministro della giustizia. Buona domenica Paola Severino. Buona domenica a tutti e grazie per avermi chiamata su questo tema così interessante. Grazie a lei. E a Donatella Isaia, direttore delle risorse umane dell'organizzazione di Vodafone Italia. Buona domenica, dottoressa Isaia. Buona domenica. Il tema è un evergreen, lo dicevo. Chiedo a Paola Severino come l'ha affrontato lei, come è riuscita a diventare una dei più grandi avvocati con uno studio a Londra, con clienti internazionali, avendo una famiglia, una figlia, e stiamo parlando anche di anni, no? Gli anni 80, eccetera, in cui non era facile essere un'avvocata di successo in un mondo estremamente maschile. Lei come ce l'ha fatta? Ma guardi, è veramente un evergreen. Quando io ho iniziato a fare l'avvocato, avendo scelto tra l'altro di fare l'avvocato penalista, a Roma c'era soltanto un'altra avvocato donna, la quale era impegnata tutto il giorno, non aveva né marito né figli, e aveva dedicato tutta la sua vita all'avvocatura. Io decisi di continuare in questo lavoro perché mi piaceva moltissimo l'idea di fare l'avvocato penalista, però volevo sposarmi ed ebbi anche una figlia, e dunque da lì è iniziato il mio lungo cammino, che naturalmente ha avuto delle soste, ha avuto delle interruzioni. Quando è nata mia figlia, io per un anno non ho più lavorato nello studio nel quale avevo iniziato la mia carriera. Trovai però un avvocato estremamente disponibile, ma forse anche una persona che ha saputo vedere un po' nel futuro, e dunque mi concesse di allontanarmi dallo studio per un anno e poi riprendere piano piano le mie attività. È chiaro che le mie attività crebbero con una lentezza superiore alla media delle altre donne che, non avendo avuto figli, io dico che questa è stata una grande componente peraltro del mio successo, la famiglia, e aver potuto condividere successo e gioie che può dare la famiglia. Diciamo che la crescita è venuta un po' più lentamente e con molto impegno e molta fatica, non solo da parte mia, ma anche da parte di mio marito e anche da parte di mia figlia. Allora, il mio messaggio è: ce la si può fare. Costa molto, costa molti sacrifici, però i risultati che si possono ottenere sono straordinari. All'inizio avevamo anche pochi soldi, avevo una donna che veniva per qualche ora a tenere la bambina e dunque parametrai il mio lavoro alle poche ore disponibili che avevo. Poi naturalmente, continuando a lavorare, io e mio marito riuscimmo a permetterci una babysitter, però a me è sempre rimasto il desiderio e l'idea che in uno studio legale come il mio, in cui oggi ci sono tanti giovani, si debba avere un piccolo asilo nido. E forse sto per realizzare questo grande risultato della mia carriera, avere la possibilità di dare agli avvocati, ai giovani avvocati, alle giovani e ai giovani avvocati che lavorano nel mio studio, la possibilità di avere i figli vicino, di sapere e di essere tranquilli sul fatto che loro saranno ben assistiti, e saranno sereni i figli perché sapranno di essere vicini al luogo in cui i genitori studiano. Si lavora senz'altro più serenamente. Alla direttora delle risorse umane di Vodafone, Donatella Isaia, chiede il dubbio che è chiaramente al centro della lettera pubblicata dal Financial Times. È: chiedo all'azienda di lavorare solo 4 giorni a settimana, questo mi metterà in cattiva luce. In Vodafone, come vi comportereste con una richiesta di questo tipo? Diciamo che noi un po' siamo stati precursori negli ultimi anni del cercare proprio di andare a trovare quelli che sono gli strumenti di flessibilità, che poi è quello che Lucy Callaway sta chiedendo, per consentire un miglior bilanciamento tra la vita personale e la vita professionale. Peraltro questo credo che oramai nella realtà italiana è un valore che è riconosciuto ed è un aspetto che poi le persone, noi ci rendiamo conto, valutano moltissimo quando scelgono in che azienda andare a lavorare. Per cui noi diciamo stiamo lavorando da anni proprio per andare nella direzione di poter fornire una serie di strumenti che poi ogni dipendente, a seconda del suo ciclo, Mi fa due esempi che possono riguardare le donne con figli piccoli che non hanno intenzione di smettere di lavorare e vorrebbero continuare anzi a fare carriera nell'azienda. Che cosa fate per loro? Allora, noi abbiamo, intanto abbiamo tutta una policy che supporta la maternità, perché noi riteniamo che questo sia un valore, che quindi consente alla donna di stare a casa con uno stipendio pieno per un tempo più lungo di quello che... ecco, ma una volta che è tornata, avendo figli di 8-9 anni, appunto, lei dice vorrei andarli a prendere a scuola almeno 2 pomeriggi a settimana, la possibilità del lavoro agile, dello smart working, è esercitata da voi in azienda? Assolutamente. Allora, noi abbiamo iniziato con un pilota nel 2001. Oggi abbiamo 3.500 persone che possono scegliere di lavorare in modalità smart. Che cosa significa? Questo non ce lo siamo detti noi, siamo certificati dall'Osservatorio per lo Smart Working del Politecnico di Milano come l'azienda che offre questa possibilità al maggior numero di dipendenti. Significa consentire attraverso l'uso delle nostre tecnologie ai nostri dipendenti di poter lavorare alcuni giorni nel corso del mese da casa, quindi senza dover venire in ufficio, e questo ovviamente dà ampi margini poi di flessibilità nell'organizzazione della giornata e nell'organizzazione del lavoro sulla base di quelli che sono i risultati attesi e non solo sulla base della presenza fisica nel luogo di lavoro. Siamo partiti nel 2011 con un pilota su una piccola popolazione, l'abbiamo estesa a tutta la popolazione aziendale lo scorso anno, dando accesso allo smart working a tutti 2 giorni al mese, e oggi un giorno a settimana tutti i nostri dipendenti, qui 3.500 persone all'interno dell'azienda, possono accedere allo smart working, questo sia donne che uomini, e quindi è un elemento di flessibilità. Ed evidentemente funziona. Avvocato Severino, un'avvocata come è... la lettrice del Financial Times che ha scritto a Lassie Calloway, cioè un'avvocata di un grande studio d'affari, nella sua conoscenza, avvocato, viene vista come una che sta scalando delle marce se chiede di lavorare solo 4 giorni a settimana, obiettivamente, per essere realistici? Sì, io voglio essere molto realistica e devo dire che il quesito che pone la collega è un quesito estremamente serio ed è peculiare, nella misura in cui lei stessa se ne rende conto e rappresenta che il suo lavoro è legato al risultato. E un lavoro legato al risultato naturalmente è difficilmente riducibile in termini di ore di lavoro. Il cliente chiede un certo risultato da un team che spesso lavora per ore e ore ed ore senza concedersi pause. Allora il problema si sposta, diventa se tutto questo sia conciliabile con la presenza di figli, con il desiderio di assistere alla crescita dei propri figli. Io credo che in questi casi occorra pensare realisticamente che una pausa di questo genere può rallentare la tua carriera, cioè io credo che il fatto di ridurre le ore di lavoro, mi spiace dirlo, ovviamente non vorrei che fosse così, ma bisogna essere realisti, rallenta l'avanzamento in studi che poi badano moltissimo alla produzione e dunque possono rallentarti l'associazione, l'entrare in partenariato, e bisogna valutare se tutto questo valga la bellezza di andare a prendere un figlio a scuola. Io credo di sì, e io credo che poi quando si ritorna caricati dalla crescita dei figli, da una buona crescita dei figli, si possa anche recuperare quello che si è perduto per qualche anno. Quindi il consiglio sarebbe di prendere il coraggio e parlare con il capo dello studio legale, dirgli io voglio fare un passo indietro, anzi di lato, non è una cosa definitiva, fatemi fare per un anno una presenza più diciamo costante accanto ai miei figli, un anno, 2 anni e poi tornerò. Non tutti gli studi legali però lo fanno e non tutte le aziende. È l'ultima domanda per entrambe. Di nuovo andrei da Paola Severino e poi chiuderei con la dottoressa Isaia. Se può confortare sarò brevissima, è esattamente quello che feci e mi sembra che i risultati mi abbiano premiato. Ecco, questa è una cosa positiva, è un messaggio che dovrebbe incoraggiarci. E per quanto riguarda una grande azienda, se una fa un passo di lato, poi le è consentito di recuperare il tempo perduto, dottoressa Isaia? Ma assolutamente, non credo che sia tempo perduto, che noi lo considereremmo e che lo consideriamo tempo perduto. Proprio l'obiettivo nostro di lavorare su elementi di flessibilità è nato dal valore che noi vediamo nel bilanciamento e nell'avere poi delle persone che sono motivate. La motivazione delle persone non è solo guidata da quello che ottengono da un punto di vista professionale, ma anche poi della loro soddisfazione a livello personale. Noi abbiamo esempi di persone anche in ruoli senior che sono rientrati sul ruolo che avevano in precedenza a valle della maternità, e appunto l'accesso allo strumento dello smart working è aperto a tutti i livelli aziendali, per cui la grossa esperienza poi che abbiamo credo fatto come azienda attraverso lo smart working è che laddove al dipendente tu dai fiducia e dai flessibilità, in realtà il dipendente ti ripaga con altrettanta fiducia ed altrettanta flessibilità, per cui noi non abbiamo avuto evidenza che la flessibilità abbia avuto poi degli effetti negativi sulla produttività aziendale o sulla nostra capacità come azienda di raggiungere i risultati, anzi, e questo credo che sia poi il cambio culturale più grosso che ci siamo portati, certo, attraverso lo smart working. Vale per le grandi aziende, avvocato Severino, credo che sia ancora complicato negli studi legali, vero? Certamente lo è, però nei grandi studi incomincia ad affacciarsi anche questa mentalità. Grazie, spero che chi ci ascolta e magari si ritrova nella lettera del Financial Times che abbiamo citato possa fare proprie anche le esperienze e il punto di vista dell'avvocato Paola Severino e della dottoressa Donatella Isaia di Vodafone e possa magari farle presente anche all'ambiente di lavoro nel quale si trova. Buona domenica a entrambe, grazie per essere state con noi, a Nessuna è Perfetta. Grazie, grazie. Buona domenica a tutti. Grazie. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E la passione continua anche la domenica dalle 17 alle 19. Sono Giovanni Capuano e vi aspetto, tutti convocati weekend, facciamo il primo processo a quello che è successo in campo. Nessuna è perfetta. Ultima parte di Nessuna è perfetta. Questo è il momento del consiglio pratico e a darcelo è una professional trainer, una coach, come si dice, Carla Ciani. Buona domenica, Carla Ciani. La domanda è buona semplice. Domenica a te e a tutti. Che fare? Che cosa bisogna fare se, mentre sei in maternità, un collega approfitta della tua assenza per fare carriera? Prima di tutto dobbiamo prendere consapevolezza di che cosa abbiamo fatto o non abbiamo fatto per consentire al collega di approfittare della nostra assenza, anche perché la situazione si potrebbe ripetere. Dobbiamo quindi essere consapevoli che la donna, quando decide di avere un figlio o ancora di più quando è inaspettato, tende anche inconsapevolmente ad attivare dei meccanismi di autoesclusione, come se l'assenza fosse totale, fisica, mentale, emozionale, dei contenuti professionali, eccetera. Evidentemente non ha costruito con la collega una delega ben strutturata, ma si è in qualche modo affidata al conforto, alla sua comprensione. Ha delegato alla sua collega essere lei e non fare per lei. E così intanto le ha dato un grandissimo assist. Ma insomma, il passato non si può cambiare, quello che deve fare... Allora, la prima cosa, non trasmettere il senso di rinuncia a prescindere. Quindi consentendo agli altri di certificare i nostri limiti. Tu non te ne puoi occupare, me ne occupo io, così tu puoi tornare a casa presto dalla bambina. E cioè non dobbiamo pensare di non farcela prima di averlo sperimentato concretamente. Punto secondo, abbandonare il senso di tradimento. Cioè ancora una volta stare nel tradimento, nel rancore. Non sentirsi quindi tradita dalla collega. No, il tradimento ancora una volta è una questione personale, sposta l'attenzione su una relazione con quella persona in particolare, una sensazione di tipo emozionale, e invece dobbiamo essere molto dentro il contesto aziendale complessivo. Terzo punto è non stare sulla quantità, cioè non pensare che la quantità compensi la nostra assenza. Bisogna aumentare la qualità dei nostri contenuti, bisogna trasformare il nostro bisogno di tempo in efficienza, quindi meno comunicazione informale, evitare i mangiatempo, evitare le nostre narrazioni sulle esperienze di mamma. E stare sul pezzo. Quando si sta lì, si sta sul pezzo. E soprattutto essere, rimettersi in una competitività e non nella rivalità con il tempo, la rivalità con chi nel frattempo ha fatto più di noi. E riguardo il senso di colpa, sappiamo che è una delle cose che fa più male e che bisogna eliminare in grande velocità. Tanto non aiuta a essere mamme migliori. No, la mamma migliore è una mamma che riesce a ritornare dalla propria figlia, dai propri figli, contenta o comunque soddisfatta della sua giornata, e al mattino riesce ad andare a lavorare contenta per quello che ha fatto e per quello che farà. La comunicazione della gravidanza dovrebbe essere contestuale anche a una presentazione di come la persona intende organizzare questa sua temporanea assenza. Quindi dovrebbe proporre e anticipare le condizioni che potranno essere quelle ottimali per... Cioè dovrebbe dire che cosa? Dovrebbe dire come pensa di organizzare il suo tempo, non tanto in termini di promesse o di rassicurazioni, ma con una pianificazione già stabilita, aziendale. Quindi quali io tornerò, sono le pratiche tornerò tra tre mesi e intanto mi occupo di queste pratiche. Questa pratica, che è magari particolarmente complessa, ho pensato di delegarla alla mia collega X. Sono io che gestisco questo. Non delego a prescindere, non mi metto in una situazione di rinuncia a prescindere, ma ho organizzato, pianificato l'attività contando sulle relazioni di fiducia o anche sulle competenze e sul supporto che mi possono dare uno o più colleghi. Così si fa, si organizza per tempo, si dà un segno di controllo della situazione. Della situazione, e soprattutto questa comunicazione, questa pianificazione deve essere contestuale o molto contigua all'annuncio, perché purtroppo ancora insiste questo senso di inaffidabilità, no? della donna in gravidanza, e questa inaffidabilità, che forse insomma è naturale anche negli uomini purtroppo ancora, dobbiamo essere noi a trasformarla invece in una stima, come dire, accordabile, cioè ti presento un piano che sicuramente avrà un tuo riscontro positivo, un livello di sostenibilità che tutti siamo in grado di garantire. L'ultima domanda, che fare se il tuo capo ti dice poi non ti preoccupare, io non ti daremo altre pratiche perché hai già tante cose a cui pensare, anzi guarda, passa al tuo collega XY le cose importanti che stai seguendo. Ancora una volta si farà un piano di condivisione o di passaggio delle cose che noi riteniamo di non poter sostenere, perché attenzione, insomma, mettere al mondo un figlio è un progettone, no? Certo. E forse dobbiamo allenarci anche a viverlo come un progetto, e quindi dovremmo dire quali sono le cose che noi intendiamo affidare agli altri, cioè anche con un atteggiamento un pochino femminile, dare al capo la soddisfazione di comprendere perché in buona fede lui ci offra un tale riguardo, ma poi dobbiamo essere noi a gestire in realtà le cose che vogliamo tenere in considerazione, quelle che dobbiamo anche lasciare andare, perché comunque ci servirà un tempo, sarà magari un'esperienza particolare, magari il primo figlio, quando saremo in quella situazione vorremmo anche godere del nostro tempo, perché cambierà magari il nostro sentimento, concentrarci un po' su quello. A volte cambiano anche gli obiettivi, no? Fino alla nascita magari noi pensiamo di proseguire con i nostri obiettivi, con le cose che vogliamo ottenere, poi questo momento ci invita magari a fare altre riflessioni. E sì, forse grazie. il tempo che è richiesto dall'essere padre o madre forse è più importante nel durante che non nei mesi in cui siamo lì ad attendere. Dura a lungo, infatti. Grazie Carla Ciani, grazie a tutte voi che ci avete seguito e a tutti voi che ci avete seguito in questa puntata con questo fil rouge. Noi vi aspettiamo, come sempre, domenica prossima.